Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, grazie per essere venuti al nostro appuntamento. Infatti siamo qua con Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, uno studio affollato e come sempre i titoli. Un fratellino tra di noi. Quinoa, conoscerla per apprezzarla. Cani e gatti, amici nemici. È arrivata o sta per arrivare, parliamo di cicogne ancora in volo, già atterrate, in nidi già occupati. Oggi cercheremo insieme a voi di capire come aiutare i fratelli ad accettare l'arrivo di una nuova cicogna e anche come eventualmente aiutare i bambini che con il nuovo fratellino in casa faticano, diciamo così, a fargli posto. Come nostra tradizione, tutti i secondi martedì del mese abbiamo con noi in studio le mamme blogger Yolanda e Veronica. Ciao ciao ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti. Questo è stato il tema più votato tra una rosa di temi che abbiamo proposto come sempre su blogmamma.it. C'è stato abbastanza un testa a testa, vero? Sì. Gli argomenti proposti erano molto interessanti tutti e alla fine si vede che ci sono cicogne in arrivo che sono atterrate da poco. Qui in studio Alberto Pellai. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E saluto anche al telefono la dottoressa Manuela Trinci, che è praticamente al telefono, ma è come se fosse seduta qui. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie. Psicoterapeuta dell'età evolutiva e psicologa esperta ufficiale, Alberto, possiamo dirlo, no? Certo. Ecco, dello spazio dedicato alle mamme blogger. Allora, a voi, nelle vostre case, come sono andate le cose? E se doveste identificare un problema emergente tra tutti gli altri, quali verrebbe da mettere proprio sotto la nostra lente di ingrandimento? Iniziamo da Veronica. Ma io mi reputo molto fortunata perché non ho avuto grossi problemi. Poi se vuoi ne parliamo più nel dettaglio. Il mio problema quotidiano di oggi, di questo possiamo parlare. Io ho due figli, uno di quasi 4 anni, uno che ha appena fatto 2 anni, quindi hanno circa 22 mesi di differenza. È l'interazione nel gioco. Perché si cercano molto e desiderano fare le cose insieme, quindi mi fa anche piacere. Però solo che parlano due linguaggi diversi perché hanno due maturità completamente diverse. E la bambina è violenta, cioè la piccola morde la piccola il fratello mela. Grande. Yolanda, a io, te? Io sono stata meno fortunata, io ho avuto, sì esatto, decisamente, perché io ho avuto la prima bambina che non solo era la mia prima figlia, ma era proprio la prima nipotina di tutta la famiglia, dei nonni da una parte, quindi una piccola principessa, sì. Ok? Poi è arrivato questo fratellino dopo 2 anni e questa ha sclerato, si può dire sclerato in labio, cioè è proprio andata... Non ne voleva sapere. No, ma zero proprio. Alberto con 4 figli. Guarda, ti dirò che ti riferisco un problema che sento però poi raccontare anche da tanti genitori. Cioè, un conto è il problema tra i fratellini, ma a volte gli stessi genitori, quando hanno così tanto amato il primo figlio e sanno che sta per arrivare il secondo figlio, continuano a fare questa domanda: ma io come potrò amare il secondo figlio tanto quanto ho amato il primo? E quindi partono, secondo me, già un po' col piede sbagliato. Cioè, come se già costruissero una sorta di podio dove c'è un primo arrivato, un secondo classificato. E questo naturalmente rifletteremo a voce alta con i nostri ascoltatori. 824 0024 mi viene in mente, tornando indietro, che quando io ho 2 figli, hanno 2 anni di distanza, abbiamo preparato la prima, le abbiamo raccontato, quando l'ha incontrata per la prima volta mi ha detto: mi sembra carina anche se molto piccola, a questo punto possiamo portarla indietro. Dottoressa Trinci. E così ha detto, sorridente, va bene, vista, visionato, valido, torni da dove è venuta. E poi le cose, insomma, sono andate bene, più o meno bene. Abbiamo avuto, come sempre, tutti i problemi, piccoli, grandi problemi, che quando si superano ci sembrano piccoli, no? E poi quando ci siamo dentro invece ci sembrano insormontabili. Ma io vorrei provare con voi a farvi fare una sorta di gioco di immedesimazione. Lo suggerisce la psicologa inglese Penelope Leach, che ci aiuta con una serie di frasi a metterci proprio nella testa del nostro bambino. Quello che propone Penelope è questo: ci chiede di immaginare che il nostro marito un giorno venga a casa proponendoci di accettare un'altra moglie, una come noi, no? Allora immaginatelo ora mentre usa quello stesso tipo di frasi che solitamente i genitori usano per dire ad un bambino che sta arrivando un fratellino o una sorellina. Avremo con noi un altro bambino, tesoro. Perché abbiamo pensato che per te sarebbe bello avere un fratellino o una sorellina con cui giocare. Non ti vorremo meno bene per questo. Ci ameremo tutti. Avremo con noi una seconda moglie, tesoro. Perché abbiamo pensato che per te sarebbe bello avere un po' di compagnia e un aiuto in casa. Ti vogliamo così tanto bene che non possiamo più aspettare per avere un'altra meravigliosa bambina o bambino. Non ti vorremo meno bene per questo. Ci ameremo tutti. Ti voglio così tanto bene che non posso più aspettare per avere un'altra meravigliosa moglie. Non ti vorrò meno bene per questo. Ci ameremo tutti. Sarà il nostro bambino di noi tre e ci occuperemo tutti insieme di lui. Sarà la moglie di noi due e ci occuperemo insieme di lei. Beh, care mamme, vista così sembra quasi normale, no? Non c'è da stupirci se il nostro bambino fatica a fare posto al nuovo arrivato. Dottoressa Trinci, lei che dice? Beh, dico che a questo livello sono d'accordissimo, è molto faticoso, ma io credo che il linguaggio utilizzato lì giocosamente è un po' mieloso. Perché io penso che quando arriva un nuovo bambino in casa, è vero che poi i genitori devono rassicurare, ma intanto io penso che non si debba fare un bambino per il bambino, per il fratellino, eccetera. Lo si fa perché ci fa piacere, quindi il bambino deve capire. Io credo sia molto importante continuare a mantenere sempre la dissimmetria fra quelle che sono le scelte dei genitori e quelle che poi sono le scelte del bambino. Ecco, mi ricordo che una famiglia dove già erano presenti quattro figli, i genitori convocarono i quattro bambini, di cui la più piccola di 4 anni, dicendo loro: il babbo e la mamma devono comunicarvi una cosa. La disperazione, perché tutti e quattro pensarono: arriva un altro bambino. La mamma disse: no, intanto si pensava di comprare un computer. Allora grandi sospiri di sollievo, eh? Secondariamente, se anche fosse stato un bambino, è un problema nostro, del babbo e della mamma, non vostro. Cioè, io credo che questo esempio così possa però fare un po' riflettere sul fatto che bisogna anche quel tipo di linguaggio lì, che normalmente si utilizza e lo si utilizza in assoluta buona fede, di fatto lascia poco posto a dei sentimenti ostili e rabbiosi che si possono provare in presenza del fratellino o della sorellina. Il gioco grosso io penso che sia quello, cioè quando i genitori tengono, allora essere gelosi è normale, perché effettivamente si è comunque defraudati di qualcosa. Certo. Allora cominciate a chiamarci 824 0024, a scriverci al 349 238 6666, raccontateci come sono andate le cose in casa vostra all'arrivo di un nuovo bambino, oppure come è andata voi quando eravate bambini e il nucleo familiare si è ampliato con l'arrivo di un nuovo fratellino, di una nuova sorellina. Con i nostri ospiti, naturalmente, con l'aiuto delle nostre mamme, oggi commenteremo un po' quello che è successo nelle nostre case, e chissà mai che Alberto Pellai ci aiuti ad accendere dei pensieri. 824 0024. Una mela al giorno. E adesso dai fratelli passiamo alle cugine, ad una in particolare. Parliamo di quinoa. È diffusa e di ampio utilizzo nel Sud America. Questa pianta viene conosciuta da tempi remoti, fin dai tempi degli Incas e degli Azzechi. Noi la possiamo consumare sotto forma di semini. È un alimento molto interessante, ricco dal punto di vista nutrizionale e anche gustoso. E allora io ho invitato il dottor Marco Bianchi. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ho invitato Marco Bianchi perché ha scritto un libro molto interessante da cui prenderemo più volte spunti. Si chiama I Magnifici 20, i buoni alimenti che si prendono cura di noi. Marco Bianchi è un ricercatore che lavora alla Fondazione IFOM, che è l'istituto della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che si occupa di oncologia molecolare qui a Milano. Allora, dottor Bianchi, abbiamo detto che è la cugina degli spinaci e che arriva dal Sud America. Sì, noi qui la troviamo in forma di piccoli semini tondeggianti che sono molto interessanti dal punto di vista nutrizionale, quindi fa piacere parlarne per farle conoscere a chi ancora non ha avuto dimestichezza, non l'ha ancora portata a tavola, perché porta buono, nel senso che regala salute. È vero, confermo tutto, Nicoletta. Infatti è anche, come prima cosa, è assolutamente non contiene glutine, quindi è un ottimo cibo insomma per i celiaci. Inoltre è ricchissima di calcio, di fosforo, vitamine del gruppo B ed E, oltre che contiene proteine come amminoacidi essenziali, come ad esempio la lisina, che l'organismo non riesce a sintetizzare, che ovviamente la rende al numero uno proprio tra i prossimi nella famiglia proprio dei carboidrati. Dove si può acquistare? Nei supermercati, nelle boristerie, nei prodotti nei negozi di prodotti naturali? Come si trova e in che versione? Allora, sicuramente in tutti i posti che hai elencato, sì, è presente. C'è, la troviamo. E la troviamo sia sotto forma di farina, sì, quindi possiamo farci anche del buon pane in casa, delle pizze, l'ho fatte, funziona, è buona. Piuttosto che sotto forma di pasta, oppure così come cereale, quindi come granellini che appunto descrivevi. Infatti vengono anche cotti così facilmente, insomma, in acqua salata. E in quanto tempo cuoce? È una cosa rapida? Sì, guarda, al massimo 10 minuti, un quarto d'ora è cotta. Dipende un po' anche dalla confezione, perché talvolta la vendono anche precotta, quindi bastano veramente pochi minuti. Ecco, nel libro di Marco Bianchi, Magnifici 20, questi buoni alimenti che si prendono cura di noi, mi piace molto il sottotitolo, ci sono anche delle ricettine. E allora io chiederei al dottor Bianchi di regalarci una ricetta molto veloce per utilizzare la quinoa. Molto volentieri, io vi proporrei le polpettine di quinoa appunto vegetariane. Sì. E non dobbiamo fare altro che appunto lessare la quinoa e unirla alla fin fine con delle verdure che più ci piacciono. Io solitamente la faccio con zucchine, carote, porri, insomma. Una manciata di spezie, di aromi che accompagnano sempre la mia cucina, sì, sono poi fortemente salutari anche, e non lo so, in questo momento viene in mente del prezzemolo, piuttosto che un cucchiaino di coriandolo e probabilmente anche della curcuma, tanto per colorare un po' il piatto, sì, perché porta beneficio. Una volta lessata appunto la quinoa, aggiunte le varie verdurine tagliate, sì, a pezzettini, la manipoliamo proprio a formare delle palline. Polpettine. Sì, delle piccole sfere, insomma, che passeremo poi al forno su una teglia leggermente oliata per una ventina di minuti a 180 gradi, 200 gradi. Per arricchirle in sapore, è una curiosità questa, le passo ulteriormente magari in pan grattato che è stato aromatizzato anche con della polvere d'aglio. Che buono! E questo lo rende molto più, ancora più appetibile, insomma. Per accompagnarle? Accompagnarle, questo qua è ottimo anche come finger food, direi. Sì. Quindi anche per un aperitivo, volendo. E il solito bicchiere di vino rosso, che non fa male, assolutamente lo consiglio. E non solo quello, però, nel senso che io da Stemio, ad esempio, il mio bel bicchiere di succo di melograno non me lo faccio mai mancare. Anche questo si trova facilmente nei supermercati, scegliamo quello naturale perché è molto ricco di vitamine, vero, il succo di melograno? Assolutamente, ma non solo, perché infatti è ricco, ed è il principe insieme insomma alla fragola e ai vari frutti rossi, di acido ellagico, che è una parola un po' strana, insomma, però non è altro che un composto presente in questi frutti che è stato studiato ampiamente in laboratorio e ha un'attività antitumorale ben accertata. Acido ellagico. Ecco, noi siamo partiti dalla cugina degli spinaci, siamo arrivati all'acido ellagico e tra l'altro con una ricettina che proveremo tutti. Grazie a Marco Bianchi, allora, buona giornata. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Pronto soccorso. Adesso devi spingere, cara. Così. Forza, brava, spingi, così. Eccolo. È bello in carne, sì. Ah, perfetto, sotto ogni punto di vista. Come lo vogliamo chiamare? Mio padre si chiamava Nicholas. Sì, Nicholas Klaus. Frederick. Su, vieni, che aspetti? È tuo fratello. Ti prometto che sarò il miglior fratello maggiore di tutto il mondo, Nicholas. Ma la promessa di Fred è solo l'inizio della storia, perché a volte fare una promessa è più facile di quanto non lo sia mantenerla. Ogni volta che riusciva a rendere i genitori orgogliosi di lui... Frederick, ma come stai bene? Nicholas riusciva a renderli ancora più orgogliosi. Mi sono fatto questo vestito da solo. Io non andrei a vantarmene in giro. Su via, Frederick. Cerca di assomigliare a tuo fratello. caro Alberto, cioè, poi si parla di gelosia tra fratelli, dipende poi chi ti trovi o no. E direi anche però quella frase, guarda lui come bravo, la diciamo, e per il bambino al parco, e per il bambino al supermercato, è sempre fallimentare, cioè non aiuterà mai a rendere un bambino più tranquillo, meno agitato, più sereno. Quindi cominciamo proprio a dare il primo consiglio, sradicatela dal vostro lessico familiare. Lui è migliore di te, non ditelo mai. È d'accordo, dottoressa Trinci? Assolutamente d'accordo, anche perché poi va a finire che molto spesso quando si incontrano i genitori che hanno due o più figli dicono uno è bravissimo a scuola, l'altro fa bene danza, uno fa sport, e viene un po' il sospetto che abbiano ragione anche i terapeuti familiari, che quando un bambino nasce e ci sono già dei ruoli e dei posti precisi presi in famiglia, l'altro si accomoda in un posto libero. Quindi se il posto del buono è già preso, uno si sceglie il discolo. Yolanda. Volevo ricordare un'altra frase terribile che però sfido qualsiasi mamma di due a non usare, cioè ti viene proprio da morderti la lingua, è ma tu sei la più grande, oppure sei il più grande, quindi mi aspetto da te qualcosa di un po' più, insomma, un comportamento forse più adeguato, eccetera. E questo li manda in bestia. Veronica? A me è scappata la frase infelicissima, oh la mia bambina intelligente. E adesso lui non la dico più. Non la dici più. No, mi ha detto anch'io sono intelligente, tu sei intelligentissimo. Sì. 824 0024, vorrei leggere subito un sms, perché rispondendo a questo secondo me facciamo un servizio. Ho saputo proprio la scorsa settimana che finalmente ridiventerò mamma. Quando devo dare l'annuncio a mio figlio Jacopo, che adesso ha 4 anni e che da mesi ci chiede un fratellino, perché Jacopo non sa quello che gli aspetterà, no, lo dico io, non è il messaggio, meglio dirlo subito o aspettare di essere sicuri che la gravidanza vada a buon fine? Dottoressa Trinci, ci portiamo avanti, aspettiamo? Ma guardi, io credo che i bambini avvertano il clima emotivo che cambia in casa. Recentissimamente una bambina buffa, a cui la madre aspettava perché aveva avuto una gravidanza un pochino problematica, quindi questa bimbetta di 2 anni e mezzo, aspettavano di essere più tranquilli. Quando al quarto mese sono arrivati a dirglielo, la bambina li ha guardati e gli ha detto: lo so, dentro il palloncino c'è un fratellino. Paola. Quindi, bisogna davvero avere un pochino, certo, magari proprio i primi giorni no, però si può poi coinvolgere il bambino se la gravidanza procede regolarmente, perché all'incertezza della vita non possiamo dare nessuna certezza. Abbiamo Paolo da Trani, prima dei mercati. Paolo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, la lascio lì un attimo perché voglio leggere un messaggio di Paola che ci scrive: dopo il quinto, immagino figlio, il mio primo mi ha detto ora basta con le storielle d'amore. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi. A riguardo dell'intervento del dottor Pellai, se non sbaglio. Sì, Alberto diceva Pellai. Appunto, come farò? C'è il dubbio di tanti genitori che un vorrò po' bene a lui mio. Come all'altro, a Brava. Lui come agli altri, come Nel sono capaci. Anch'io in maniera non proprio lucidamente logica, no? Però in certi momenti penso, siccome Francesca, la bimba, ha 4 anni, e continua, ma papà, quando mi fai la sorellina, quando mi fai il fratellino? Ah, lo dice a lei, non alla mamma? No, a tutte e due, però io sono un po', noi giochiamo a marito e moglie, io sono suo marito in realtà, non il papà. Sì. Perché è un rapporto proprio, già tu sei mio marito, ci fidanziamo, tutti i giorni c'è la cerimonia del matrimonio, per cui si cambia, mette i vestiti, i gioielli e tutto il resto, e ci sposiamo, no? Sono un po' il suo, ecco. E per cui questo fratellino o sorellina, ma quando me la fai? E siccome è la prima... Per cui prima figlia, prima nipote, per entrambi i nonni. Sì, un po' come famiglie, diceva eccetera. Yolanda per la sua bambina. Lei dice, potrò mai amare così una seconda? Alberto, tu che ne hai 4, hai voce in capitolo. Ma direi di usare un po' la metafora del gioco. In questo momento è proprio un po' quello che si chiama l'Edipo, per cui la figlia vuole sposare il papà e il papà un po' collude anche con questa cosa. Forse un fratellino è proprio un modo anche per... di intravedere una buona separazione, cioè un modo per prendere per mano finalmente un altro piccolo uomo, cioè un fratellino oppure una anche sorellina, se venisse una certo, sorellina e rimettere la coppia della mamma e del papà al giusto posto. E Eccoci qua, che ci raccontiamo i piccoli e grandi problemi che nascono in famiglia quando c'è già qualcuno che è già lì nel nido e deve spostarsi un po' per fare posto al fratellino. Dottoressa Trinci, abbiamo sentito la telefonata di un papà. Dottoressa Trinci? Sì, ci sono. Sì, no, non la sentivo più. La telefonata di un papà che aveva un rapporto molto stretto con la sua bambina. Allora mi chiedevo se all'interno della coppia ci siano anche dei ruoli diversi. Il padre e la mamma possono in qualche modo aiutare, agevolare il bambino ad accettare il secondo fratello? Certo. Oppure noi adesso stiamo parlando di primo e secondo geniti, però può capitare anche che nasca il terzo figlio, il quarto figlio, insomma, ecco, ci sono, è giusto che si giochino dei ruoli differenti. Poi sentiamo il papà, il papà con la maiuscola che se la gioca tutti i giorni. Dottoressa Trinci, io volevo mettervi però prima in guardia su una cosa, da un aspetto. Molti bambini attorno proprio all'età di 2-3 anni chiedono un fratellino. Infatti, se abbiamo visto, questa è anche l'età un po' tipica, no? Che ci corre fra un bambino e un altro. Allora, questa è l'età in cui i bambini sono molto curiosi di quello che succede. Gli psicologi chiamano anche il periodo filosofico della vita dei bambini, e nei quali ci si interroga molto su come si fa a nascere. Nascono tutte le teorie che i bambini hanno su come si diventa gravidi, su come nascono, sì, eccetera eccetera. Allora, la richiesta di fammi un fratellino non ci sembri così ingenua, nel senso, loro poi in realtà vogliono anche sapere come si costruisce questo fratellino nella pancia della mamma, e appunto, per venire a lei, quali sono i rapporti che stanno fra babbo e mamma. È ovvio, per entrare più nella sua domanda su che tipo di ruolo il babbo e la mamma possono giocare in questo, è ovvio che la mamma sarà più presa, no, dal nuovo bambino, dalla nuova, anche proprio dalla nuova gravidanza, fosse non altro che per il cambiamento fisico, fosse non altro perché c'ha tutti i controlli da fare, eccetera eccetera. Quindi è vero che c'è un po' una diminuzione di tensione nei confronti, bisogna far posto nella mente, nella famiglia, a un nuovo arrivato. Allora io credo che qui il padre, almeno nella mia esperienza, ho visto che diventa proprio fondamentale e che può supportare moltissimo la mamma e l'altro bambino che già c'è, proprio proponendogli una serie di giochi, cioè aiutandolo a sentire meno la mancanza di un affetto assoluto del quale lui è stato riempito fino a quel momento. Questo vale anche se sono più bambini, con la specifica che il bambino che sta nel mezzo, per esempio se sono tre figli, cioè è il bambino che generalmente è un pochino più compresso, perché c'è il primo, la fetta di prosciutto, di formaggio, no? Esatto. Del panino. Uno rimane comunque più grande, l'altro rimane più piccino, quindi lui e tu sei lì in mezzo come... Io volevo sentire un po' dei nostri amici da casa. Abbiamo Vittorio da Napoli, Cristina da Siena, Calogero da Pordenone. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la mia situazione è questa: io ho sposato una donna che aveva già una bambina, che adesso ha 10 anni, sì, e ne abbiamo avuta una di 5 mesi, per cui questa, la prima, ha dovuto prima accettare me e poi accettare la sorellina. Qualche problema ce l'abbiamo. E certo. Alberto? Ma in questi casi mi sento proprio di dare sempre lo stesso consiglio ai compagni che si trovano a fianco di mamme che hanno già dei bambini: deve aiutare la sua compagna ad essere la mamma migliore possibile per la sua bambina di 10 anni. E questo significa non dover immaginare di dover giocare un ruolo sostitutivo, cioè diventare comunque il secondo papà. Lei rimane il papà della bambina di 5 mesi e questa sorellina ha questa bambina ha una sorella in casa che è figlia della mamma, per cui direi costantemente, chiarezza nei ruoli, assolutamente, e sollecitare il più possibile la competenza genitoriale da parte della mamma. Quindi lei può avere per esempio un altro paio di occhiali, vedere concretamente che questa bambina si trova scollocata in alcuni momenti e aiutare la mamma a tenere la bambina di 5 mesi, la sua bambina, lei, e aiutare la mamma in alcuni passaggi a rimanere molto vicina alla figlia di 10 anni. Cristina invece ci chiama da Siena. Buongiorno Cristina, benvenuta. Buongiorno, grazie. Io ho 58 anni, sono mamma di 4 figli. Sì. più piccolo ormai ha 25 anni, quindi sono tutti grandi, due figlie sono sposate e ho sei nipotini. Però. Ecco, una è qui. Eccola. Nonna chi è? Nonna chi è? Dunque, la mia esperienza è stata ed è tuttora bellissima, perché genitori non si finisce mai di esserlo. Sì. E devo dire che non ho avuto grosse difficoltà a comunicare. La prima figlia aveva un anno e mezzo quando si è messo in moto l'altro. Sì. Devo dire che ho dovuto avere attenzione dopo, perché quando mi vedeva per esempio allattare il piccolo, lei mi guardava con aria sospetta, non mi diceva niente, e io capivo che lei soffriva, perché cercava di tutto di farmi staccare questo bambino, voleva una cosa, voleva un'altra. Alla fine gli ho detto, vieni, prova. E ho staccato il bambino, che vero, protestava. Sì. E ho attaccato lei. Da quel momento lei non ha più cercato il latte, perché per lei l'aveva preso tanto, ma evidentemente questo contatto così ravvicinato. Ecco, attenzione, l'attenzione ci vuole, senza ansia, nel senso che io tremavo quando altri dicevano alla mia piccola, vedrai quando viene il fratellino. Invece li guardavo male, perché se si incomincia così, anche prima che nasca un fratellino, è la fine. Poi, uno si è l'inizio male, della fine. Cristina ci aiuta ad andare proprio nel quotidiano, e vorrei chiedere proprio a Yolanda e a Veronica, i problemi proprio nascono forse dalla cattiva gestione di gesti quotidiani. Cristina faceva riferimento al momento in cui allattava il bambino. Tanti bambini, nel momento in cui vedono la mamma che allatta il fratellino, cercano di attirare l'attenzione, alcuni diventano aggressivi. Evidentemente, quando noi parliamo di attenzione, dobbiamo stare proprio attenti ai piccoli gesti. Yolanda. Sì, io volevo, mi è piaciuta la frase che ha detto degli amici o dei parenti che dicevano adesso vedrai, perché è capitato anche a me. Infatti, secondo me questo è un vero problema, nel senso che a me dicevano la bambina, adesso quando arriva il fratellino devi poi aiutare la mamma, devi stare più brava, perché così lei avrà tanto da fare, si dovrà occupare del fratello. Drammatici. E questo è tragico. Veronica? Ma io posso dire che sono stata molto fortunata, forse perché non sono stata proattiva per niente. Cioè, io a mio figlio non ho spiegato niente. È vero che bello. Quando è nato, no, ho spiegato pochissimo, nel senso che non l'ho preparato con queste frasi. Intorno a lui non ho creato questo clima di attesa spasmodica. Era anche più piccolo, certo, perché quando è nata la sorella lui aveva 22 mesi. Lui ha visto questa pancia, me la accarezzava, tirava sul pigiama, aveva accesso al corpo della mamma come quando voleva. Gli ho detto sì, verrà una sorellina, ma non era l'argomento. E poi dopo lavoro di team, cioè squadra, la famiglia è una squadra. Quindi giustamente, come dicevano prima, papà presente, dei momenti di attenzione dedicata al bambino da solo, alla bambina, cerchiamo di mantenerlo anche adesso per quanto possibile. Quindi, per non far sentire nessuno svantaggiato. Facciamo lavorare i padri, Alberto, inizio a farti lavorare prima di andare ai mercati, perché vogliamo oggi che tu e la dottoressa Trinci, no, mercati, scusate, la viabilità, insieme alla dottoressa Trinci ci aiutate a scrivere una sorta di decalogo, poi lo so che non poi ci sta stretto, ma almeno abbiamo già evidenziato alcune frasi da non dire, ecco, diciamo anche le cose che possono aiutarci. Alberto. Ma direi per i papà immaginare proprio che fino a che era il figlio unico era il re del nido. Adesso immaginatevi che con l'arrivo di un nuovo re del nido lui deve diventare un esploratore del mondo, quindi mettetevelo sulla bicicletta, portatelo con voi al sabato mattina a fare delle cose. Questo gli consentirà da una parte di sentire che ha proprio uno spazio per lui in una relazione esclusiva con un genitore che è un po' meno invischiante della mamma, che in questo momento è così legata al suo nuovo bambino. Il secondo aspetto è che fuori dal nido c'è un mondo da esplorare. Questo corrisponde proprio alla sua nuova tappa evolutiva, e immaginare i nostri fratelli maggiori che quando arriva un fratellino hanno la possibilità di diventare esploratori del mondo significa proprio togliergli da quel luogo che un po' morbosamente li attira come una calamita, perché si sentono defraudati della proprietà della mamma. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ma che cosa fare quando notiamo proprio che questi fratellini che sono arrivati, il fratellino, sorellina, insomma, a chi era già nel nido proprio non va giù, e quindi ci sono piccoli attentati, sabotaggi, dispetti, il pizzico di nascosto. Insomma, questo fratellino non mi va giù. Ecco, ci sono degli sms di ascoltatori che ci scrivono, ci raccontano veramente liti furibonde. Ahmed da Milano, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, è un piacere parlare con lei. Grazie. Prego. No, la mia storia è questa, che mia figlia ha 9 anni. Sì. 3 mesi fa è nato il piccolino. Praticamente mia figlia non gli va giusto fratellino. È tuttora non gli va giusto fratellino. E lei pensi che da quando è nato non lo prendo mai in braccio, perché lei è troppo gelosa. Che si fa, dottoressa Trinci, quando la gelosia diventa troppa? Dunque, io un pochino credo che si debba non enfatizzare tutto questo, perché poi anche nelle cose che ho sentito finora era saggia anche la signora, la nonna, no? Quando diceva attenzione, poca ansia e valutare tutte queste cose che succedono, per esempio sia il bambino che vuole riattaccarsi al seno, il bambino che vuole il ciuccio, il bambino che si vuole rimettere il pannolone, ecco, tutte queste cose qui fanno parte del famoso giro di valzer con il quale si cresce, cioè si va un po' avanti, si torna indietro. Crescere è difficile, quindi sentimenti come rivalità, invidia, senso di possesso nei confronti dei bambini, nei confronti dei genitori, da parte dei bambini sono naturali. Allora, diverso è per esempio il caso anche delle nostre mamme, che i loro bambini ci corre poco tempo fra l'uno e l'altro, per cui non hanno i sentimenti, diciamo così, del giovane Otello. Sì. Quelli sono più che altro sentimenti di possesso. Forse la bambina di 9 anni davvero ha dei sentimenti più articolati. Certo. Cioè comincia, diciamo così, ad avere un'architettura e anche un alfabeto degli affetti con il quale i genitori possono cercare di entrare in contatto. Ecco, ma come si fa praticamente? Parlarci. Ad esempio, Ahmed dice: io non lo prendo neanche in braccio per non ingelosirla. Secondo me io lo prenderei invece in braccio. Io lo prenderei in braccio, perché mentre e lo darei anche alla bambina di 9 anni. Mettiamoci anche dal punto di vista di quello che nasce, perché deve non avere niente. Sì. E quindi voglio dire, sicuramente la famiglia è un team, dicevano le mamme blog, la famiglia è un team, e quindi come tale, come pure dei genitori che per ovviare alla gelosia mandano un bambino da una nonna e un bambino da un'altra, ma forse questa è più una difficoltà del genitore, si deve leggere dentro il genitore, potrebbe essere una sua difficoltà che dopo per esempio 9 anni di vita da sola con una bambina o un bambino è difficile mettercene un altro, oppure anche dopo 4 anni, allora se la gestione del genitore è difficile, il bambino questo lo avverte e chiaramente ci marcia sopra, no? Alberto? Sì, io penso che dopo aver vissuto 9 anni in esclusiva con mamma e papà sia giusto che entra un invasore di campo e una dice: mi trovo un po' scollocata. Per cui trovo molto valido che un bambino riesca ad esprimerla questa cosa. Sarebbe molto peggio dire: va tutto bene, non vedevo l'ora. Per cui probabilmente è una rabbia che in questo momento va un po' ridirezionata, e i genitori non devono avere paura ad esplorare quella rabbia con la loro bambina. Cioè io, proprio come diceva anche la dottoressa Trinci, mi terrei il nuovo bambino in braccio, direi: immagino che in questo momento tu devi imparare a vedere un papà che sa tenere in braccio un altro bambino che non sei più tu. Questa cosa probabilmente ti costa fatica, ma noi facciamo un sacco di altre cose belle insieme. E poi darei proprio così il valore del tempo al tempo, cioè probabilmente attraverso questo passaggio un po' faticoso fra 3 mesi la situazione trova un nuovo equilibrio. Allora, in famiglia abbiamo parlato di fratellini, di sorelline, di primogeniti, però ci sono a volte anche, ad attendere il nuovo arrivato, ci sono anche amici a quattro zampi. Parliamo di cani e di gatti e ci facciamo ispirare dalla mia storia preferita, Lily il vagabondo. Ogni pomeriggio andavamo sempre a spasso insieme, io e Tesoro, e invece ieri... No, Lily, lascialo stare. Lascialo, ho detto. Non che mi abbia fatto male, ma tesoro non mi aveva mai colpita prima. Su, piccina, non se la prenda tanto a cuore. Dopotutto, in un momento così delicato... Oh, certo, vede, Miss Lilly, viene il momento nella vita di tutti gli esseri umani in cui, beh, come dicono loro, anche le piante e le farfalle, oppure la cicogna, lo sa, no? Quel che fido vuol dire, piccina, è che tesoro sta aspettando un marmocchio. Marmocchio? Sì, insomma, un pupo, Miss Lilly. Bentornato al professor Roberto Marchesini, docente di etologia e zoantropologia, direttore della Scuola di Interazione Uomo-Animale di Bologna. Professor Marchesini. Buongiorno. È magnifica, Lilly e tesoro. Noi siamo tornate piccole qua in studio. Però dobbiamo farci i conti. Ci sono famiglie in cui vivono da anni gattoni che sono dei veri padroni di casa, o cani piccoli o meno piccoli, insomma. E poi le mamme si preoccupano, l'accetterà, sarà invidioso, geloso, lo graffierà, lo morderà, e l'igiene. Allora, noi abbiamo un paio di minuti per dare istruzioni per l'uso. Beh, direi innanzitutto cercare sempre, appena arriva il piccolo, di premiare il cane tutte le volte che c'è il bambino, cioè vale a dire teniamoci dei bocconcini, delle cose estremamente piacevoli, magari riserviamole solo per questi momenti, in modo tale che per il cane la presenza del bambino non è assolutamente un sottrarre attenzione, interesse, ma è che bello, sta arrivando qualcosa di piacevole. Quindi facciamo sempre questa associazione, è molto importante, non che quando c'è il bambino iniziamo a dire no, non fare questo, inibiamo, magari lo chiudiamo in un'altra stanza. Allora sì, siamo noi che creiamo le condizioni proprio del malessere del cane o del gatto. Viceversa, se quando c'è il bambino gli diamo un bocconcino, un premio alimentare, ecco che il cane vedrà questo marmocchio che entra in casa come una fonte piacevole e non come un intruso. Poi c'è da dire questo, che comunque è molto importante la nostra presenza sempre, non lasciamo mai il bambino da solo con l'animale, perché anche senza volere, pensiamo al gatto che è appassionato di tutti i posti comodi, va a dormire dentro alla culla, ecco, e potrebbe fare male. Mai lasciare solo il bambino all'animale. Non perché l'animale sia pericoloso volontariamente, ma semplicemente perché magari non si rende conto e fa una cosa e quindi possono. Quindi sempre vigilare, sempre essere presenti. Per quanto riguarda il gatto, c'è da dire che dobbiamo fare attenzione a fare in modo che lui abbia comunque una zona anche appartata, perché i gatti non amano i cambiamenti, le rivoluzioni nel loro mondo, quindi cerchiamo di fare in modo che comunque i suoi ritmi di vita e anche le sue situazioni siano rispettate. In questo modo non andremo a stressarlo e non creeremo delle difficoltà. Il cane invece va moderato, perché lui va giù di testa, sì, con i bambini, quindi bisogna assolutamente, poi sono portatissimi i cani per le cure parentali, quindi il suo desiderio è leccarselo e cullarlo, è così, il cane è così, quindi bisogna semplicemente insegnargli un po' di moderazione, dirgli di stare calmo, premiarlo quando sta in una situazione di calma, e allora sicuramente tutte le cose andranno bene. Non avere delle grosse paure sotto il profilo igienico, ma naturalmente, come dire, non è cedere, nel senso che comunque i primi tempi i bambini hanno ancora un sistema immunitario che è in via di formazione, quindi sì, cerchiamo di capire che l'igiene è comunque importante. L'igiene è importante, tra l'altro poi dovremmo educare i bambini quando crescono, quando escono da culla e lettino, quindi iniziano a camminare e a gattonare, a prendersi a relazionarci in modo corretto con i cani. Io vedo cani con bambini appesi alla coda, con le mani in bocca, eccetera. Ecco, su questo inviteremo ancora il professor Marchesini a darci qualche consiglio. Intanto lo ringrazio, saluto le mie belle mamme, Alberto Pellai, la dottoressa Trinci, e buona giornata a tutti. Io vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11, non mancate, buonissima giornata.